si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Quando sono le 7:36 minuti inizia una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. Ben ritrovati. Allora, subito i nostri contatti se volete interagire con noi in tempo reale, in attesa di aprire il numero verde per le vostre telefonate. 349-238-6666, come sempre gli sms, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio personale @ Ale Maurizi. Cominciamo con una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al GR delle 8, vai! E allora i giornali di oggi che si occupano del calo delle borse di ieri, legato ai timori per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, Brexit in vista del voto inglese, e poi l'apertura dell'Europeo tra qualche incidente, un po' di scioperi in Francia, ma questa è quasi la routine in Francia quando ci sono dei cambiamenti. Adesso è in corso una riforma del lavoro simile a quella italiana, i francesi si stanno incavolando parecchio, e poi insomma anche l'apertura dal punto di vista sportivo con la vittoria risicata della Francia, e anche sui giornali di oggi i timori per la salute di Silvio Berlusconi. Sono questi i titoli delle principali notizie. Cominciamo col Corriere, che parte con Berlusconi si opera martedì, sono sereno, impegnatevi. È questo il messaggio che ha mandato a Forza Italia. Poi insomma gli amici più stretti, a cominciare da Fedele Confalonieri, che insomma auspicano che di tanti colonnelli esca fuori un generale vero per il Forza Italia, ma anche per il centrodestra, perché ormai Berlusconi si deve riposare. Questo è l'imperativo che gli arriva insomma dai medici, ma anche gli amici, i parenti, ormai tutti gli chiedono di riposarsi. E insomma questa notizia la ritroviamo anche sugli altri giornali, leggiamo per esempio cosa scrive il Corriere, ricordando come sono andati gli ultimi giorni. Silvio Berlusconi ha accusato i primi sintomi di affaticamento tra sabato e domenica a Roma, dove era ricoverato, la giornata di venerdì per partecipare a Ostia alla chiusura della campagna elettorale di Alfio Marchini. Subito dopo ha avvisato il medico Zangrillo, ma dopo di questo, dopo essere rimasto a votare nonostante Zangrillo gli avesse detto di rientrare a Milano per accertamenti, è andato anche a pranzo, e qua c'è la foto che lo ritrae, al Pantheon, in un locale piuttosto affollato dove la temperatura era molto elevata. E poi ricovero per gli accertamenti, la decisione di fare l'intervento. Alfio Marchini: non immaginavo fosse così sofferente, Silvio è un leader unico. E insomma, così andando anche un po' sugli altri giornali, Libero per esempio scrive: pensano già all'eredità, il patrimonio di Silvio fa gola, il cavaliere in ospedale getta nel panico lo stuolo di donnine, amici e manutengoli che campano da anni grazie al suo welfare privato. Già, perché indubbiamente Berlusconi ha oliato tante situazioni, ha alimentato tante speranze, ha mantenuto un sacco di gente. Eppure Forza Italia scrive Libero in prima pagina che non è all'altezza di resistere alla indisponibilità del leader. Poi ancora il Giornale, vediamo se lo trovo da qualche parte, che ha il titolo principale, anche qua dice: mi affido a Dio, Berlusconi pronto per l'intervento, l'ex premier, Forza Italia è operativa. E anche se dai risultati elettorali dell'ultima tornata, anche basta guardare a Roma dove il candidato scelto da Berlusconi si è fermato al quarto posto, non sembrerebbe. Poi, sempre sul Giornale, la foto di Dario Fo che scarica Beppe Sala: meglio votare Parisi. La giravolta finale di Dario Fo, che invita a votare Parisi al posto di Beppe Sala, perché è troppo renziano probabilmente. Allora, ma dicevamo Brexit. campeggia su, su tutti i giornali. I timori di Brexit calano le borse, così il Corriere. Il Sole 24 Ore, Brexit affonda le borse, corsa ai bond rifugio, scrive il Sole. I mercati pagano il prezzo dell'incertezza in vista del referendum inglese sull'Unione Europea. In modo più o meno pretestuoso, le borse affondano, europee hanno registrato forti perdite. Milano è stata la peggiore con un meno 3,6%, tanto per non farci mancare niente, mentre Londra paradossalmente ha contenuto il calo all'1,86%. La fuga dal rischio spinge ai minimi i bond sovrani. E poi c'è Berlino, con il ministro delle finanze Schäuble, che l'ha detto abbastanza chiaramente, che temono altre uscite dall'Unione Europea. A proposito di questa situazione qua, c'è un'intervista a Nigel Farage sul Corriere della Sera. Assieme a Grillo faremo saltare l'Unione Europea. Vabbè, questi insomma sono i suoi proclami anti-europeisti da sempre. Leggiamo però, perché ci sono dei passaggi importanti. Lui dice: il paese chiave, l'anello debole di tutta la catena che imprigiona i popoli del continente è, indovinate chi è secondo Farage? È l'Italia, siamo noi l'anello debole. E ripercorre un po' mentalmente la vicenda da quando l'Italia è entrata nell'euro, eccetera, eccetera. Ma la parte più importante è quella che riguarda il futuro. E insomma, il passato recente, il presente e il futuro. Alle elezioni del 2013 Grillo è il primo partito. Nel 2015 il referendum in Grecia. Il popolo vota no all'Europa, ma Tsipras si piega. Il 2016, dice Farage, è l'anno della svolta. Viviamo un momento cruciale della storia. Grillo e io distruggeremo la vecchia Unione Europea. Il 19 giugno i 5 Stelle eleggono il sindaco della capitale e cambiano l'Italia. Qua siamo alle previsioni sul futuro, fin qua previsione realistica. Il 23 giugno la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea e cambia l'Europa. E anche questa è una previsione possibile, perché i sondaggi indicano un testa a testa per quanto riguarda il voto inglese sull'uscita dall'Europa, addirittura con un piccolo vantaggio per il no, cioè per l'uscita. Avremo un effetto domino, prosegue Farage. Dopo di noi altri paesi del nord se ne andranno uno dopo l'altro, per prima la Danimarca, ma poi ci saranno l'Olanda, la Svezia, l'Austria. E anche queste sono previsioni che stanno nell'ordine delle possibilità delle cose, perché non sarebbe straordinario, anche se l'Austria adesso con un presidente più europeista, il presidente dei Verdi appena eletto, è meno probabile che sia della schiera. Ma la Danimarca è possibile. Questo referendum, prosegue Farage, è l'evento più importante dal 1957. L'Unione Europea sta per crollare, disintegrata in tanti pezzi. Scrive Cazzullo: più che Grillo, Nigel Farage ricorda il primo Umberto Bossi, solo più elegante, o forse più eccentrico. In abito blu, cravatta con gli arabeschi, ha il gusto della ricostruzione storica e del retroscena. 52 anni, gran fumatore, i giornali inglesi, questo è l'uomo che appunto agita le acque e i sogni di tutte le cancellerie europee, i giornali inglesi scrivono che non beve da 10 giorni perché è molto concentrato sui dibattiti, ma prima del question time con la BBC si versa un bicchiere di vino rosso. Quindi gli piace il vino italiano a Nigel Farage, ma certo. Sicuro che Brexit vinca? Penso di sì, risponde. In ogni caso questo referendum non possiamo perderlo, se anche il Remain, cioè il rimanere in Europa, e anche questo è un ragionamento attendibile, attenzione, prevalesse 52-48, Cameron dovrà comunque dimettersi, i conservatori sono irrimediabilmente spaccati. E poi sul giudizio su Grillo e Salvini. Grillo, un uomo straordinario, totale disinteresse personale, amore autentico per la sua gente, un patriota, dalla politica non ha preso un penny, ha solo dato tutto, anche se stesso. Insieme stiamo combattendo la guerra dell'indipendenza. Purtroppo Beppe ha perso Casaleggio. Conosceva Casaleggio? Certo, era un genio, attendeva le cose prima degli altri, antevedeva le cose prima degli altri. E Salvini? Sono stato nel gruppo della Lega a Strasburgo, non ho mai avuto problemi, tranne che con Borghezio. Con Borghezio sì, io sono un tipo che non è politicamente corretto, dice Farage, però Borghezio è troppo, pure per me. Traffico, torniamo tra un attimo. Più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizio, ascoltatori di nuovo sui giornali di oggi. E allora andiamo anche alla inaugurazione, all'apertura, insomma, il calcio d'inizio degli europei di calcio, incidenti e scioperi, la difficile festa del calcio europeo, scrive il Corriere. Calcio d'inizio a Parigi per gli europei, i blu battono a fatica la Romania 2-1, festa sugli spalti ma anche violenze degli hooligans che hanno devastato le strade di Marsiglia. E va bene, no, non va bene, però coi timori che ci sono per la sicurezza, qualche incidente qua e là tra tifosi, mi viene da dire, ma che venga, ma ben venga, benvenuto, sempre naturalmente che non succeda niente di male a nessuno. Festa e paura, la Francia parte bene, scrive La Stampa. Allarme hooligans, scontri a Marsiglia. La Francia batte la Romania per 2-1. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. A questo proposito, gasiamoci un po' in vista del debutto italiano. Pogno, Francia sì, intanto è il secondo titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport, perché la Francia vince ma Pogba viene sostituito, e quindi c'è questo gioco di parole. Francia, lacrime di gioia, una perla di Payet piega la Romania, sostituito Pogba, questo sul campo francese. Per quanto riguarda l'Italia, Italia avanti tutta, il titolo di prima pagina della Gazzetta. Lunedì a Lione l'esordio, dopodomani la sera alle 21, Belgio-Italia, mi pare sia la sera. Conte pensa a una nazionale d'assalto per il debutto e mette le ali El Shaarawy e Candreva per aggredire la fragile difesa dei rivali. Provato in attacco anche il duo Pellè Zazza. Così sappiamo anche qualcosa su come l'Italia si avvicina al proprio esordio a questo campionato europeo di Francia. Ancora il Corriere. Scioperi, rifiuti, ultras, via gli europei tra le emergenze, la cerimonia a Parigi, danni e scontri con gli hooligans a Marsiglia. Tensione sociale, una crisi profonda, il paese diviso in due, non si godrà la festa, così scrivono alcuni commentatori, per esempio Massimo Nava sul Corriere, perché insomma, la Francia è attraversata da alcune proteste e non vive un momento brillantissimo, ma io credo che spesso, come accade spesso, poi l'evento sportivo è in grado di rompere tutte le altre routine, le altre questioni, e insomma distrarre anche la gente, anche lo scopo dello sport e degli eventi sportivi e di gioco. Andiamo su Repubblica, dove c'è un racconto importante di Bernardo Valli su una buona notizia, perché l'avanzata delle truppe libiche contro quelle dell'ISIS in Libia, nel segno di Sirte, comincia il declino del califfato. Se Dio vuole, quelli della 166esima Katiba di Misurata, scrive Bernardo Valli, sono sicuri di espugnare nelle prossime ore il centro di Sirte, dove sono asserragliati gli ultimi combattenti dello Stato Islamico. Nella città libica, se il pronostico dei comandanti della brigata impegnata nell'assedio risulterà esatto, il più importante e inquietante caposaldo jihadista affacciato sul Mediterraneo meridionale sarà estirpato. E questa sarebbe una straordinaria notizia. E la scomparsa di quel nido di terroristi proprio di fronte alle nostre coste significherà anche un'angoscia di meno. L'operazione in corso da giorni, scrive Bernardo Valli, è costata 110 morti, 500 feriti agli attaccanti, cioè ai buoni, diciamo. L'offensiva è stata rapida ed efficace nonostante l'estensione del territorio su cui si è svolta. A renderla tale, attenzione, senz'altro hanno contribuito il comando degli inglesi e degli americani, già, perché non si mandano via l'ISIS senza gli americani in Libia. Stando alle informazioni fornite da il portavoce dell'autorità di Misurata, i jihadisti, scrive Bernardo Valli, occuperebbero ormai soltanto il groviglio di vicoli nel cuore della città dove è cresciuto e dove è stato ucciso Gheddafi nell'ottobre del 2011. Se Sirte sarà completamente liberata, il flusso umano in partenza dalla Libia verso l'Europa potrà essere almeno in parte disciplinato. E naturalmente questa anche sarebbe una buona notizia aggiuntiva. Una buona notizia, scusate, aggiuntiva. Sempre dalla Repubblica, l'ultima tentazione, restiamo all'estero, di Hillary Clinton. Due donne alla Casa Bianca. Perché si affaccia anche una possibile vicepresidente, Elizabeth Warren, 66 anni, figlia di un bracciante di colore, nemica di Wall Street, potrebbe essere candidata come vicepresidente. Sorriso mite da professoressa, e in effetti lo ha, si vede dalle foto, temperamento politico da pitbull e tracce di sangue Cherokee nelle vene, perché ha anche qualche origine indiana. E questo è il colpo, in qualche modo, forse a sorpresa, che i democratici hanno in animo di presentare in vista delle elezioni a novembre, conquistata adesso la primaria da parte di Hillary Clinton. Ancora dall'America, il funerale di Mohammed Ali. C'era tantissima gente, 100.000 persone, un sacco di VIP. La cerimonia funebre è stata letta dall'ex presidente americano Bill Clinton. C'erano Mike Tyson, Cat Stevens e c'era anche Erdogan, il presidente turco, che però se n'è andato stizzito. Erdogan era un grande estimatore di Mohammed Ali, che era un difensore dell'Islam, ma se n'è andato stizzito perché voleva parlare alla cerimonia, ma non ha trovato posto. Voleva posare un drappo sulla bara, ma gli è stato vietato. Voleva che il ministro degli affari religiosi turco Mehmet Gormez leggesse versi del Corano, ma i leader religiosi locali hanno rifiutato. Così Erdogan è ripartito senza partecipare ai funerali. Ali probabilmente ne avrebbe riso, e questo ridiamo anche noi. Con lui, le stranezze eccentriche del presidente turco, che è questo, insomma, è questo tipo di personaggio. Vi voglio lasciare velocissimamente però con una buona notizia: è una tendenza, ce l'ha Repubblica. Da Londra a Bologna in città si pedala gratis, è già, perché si chiama Boots Bike e scaricando una semplice app rompe i tradizionali schemi del bike sharing. Le bici in affitto, che però si pagano, offre infatti ai cittadini la possibilità di sconfiggere gratuitamente l'incubo del traffico. In cambio chiede loro di usare la bici per almeno 12 giorni al mese, parcheggiarla in modo sicuro su strada e trattarla con cura. In cambio, appunto, la bicicletta è gratis, offerta dal comune. Accade a Londra, ma accade anche a Zurigo, Copenaghen, Lubiana, Adelaide, Seul, Città del Messico, o anche in Italia, a Bologna, Foggia, Pesaro e Viareggio. Avanti così, tutti a pedalare. È l'ora del giornale radio, noi con Si può fare, ci risentiamo subito dopo il GR. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. E buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini e buon sabato. Ben ritrovati cari ascoltatori, quando sono le 8 e 21 minuti riparte una nuova puntata di Si può fare. 80024 0024, vi aspettiamo. Carlo, Milano Monterosa, com'è? Pioggia, poi grandine, mestizia. No, grandine non è vero, molta mestizia, posso dire moltissima mestizia in anche questo senza giugno. Grandine mestizia, no, mestizia infinita. No, perché... E poi tu ti dirà, arriva il caldo, arriva il caldo, cosa? Non fa manco niente, caldo, niente. Siamo a metà giugno, piove continuamente. Ho già sentito un colonnello dell'aeronautica dire che sarà un'estate molto calda. Però forse inizia a settembre, nel senso che è molto calda, ma quando inizia? Io no, sono molto preoccupato, molto molto preoccupato. Cari ascoltatori, allora, tra poco parleremo di Ramadan, perché per molti concittadini, amici o non amici islamici, è un periodo particolare. Impatta per esempio anche con l'europeo di calcio, perché la Francia per esempio ha vietato ai calciatori. Hanno deciso di non gli stessi giocatori. Infatti sono curioso, adesso lo chiediamo se si può decidere. Si fa? Se bisogna chiedere il permesso a qualcuno, al Papa loro ovviamente. Perché non mangiare ogni tanto può fare anche bene alla salute, però non mangiare dall'alba al tramonto tutti i giorni e poi giocare alla partita, giocare a calcio diventa un po' difficile. È un casino, diciamo chiaramente. Ah, poi ci è piaciuta molto questa notizia con cui vogliamo coinvolgervi, cari ascoltatori, che è una notizia che ha a che fare con con la iella, no? Con la sfiga, è un concetto sì, un po' così metafisico, ma che aleggia sempre. Io comunque sto facendo le corna, tanto siamo in radio, non si vede, giusto? Non guasta, posso poi farlo. Non guasta, esatto, non guasta. Non fa mai male. Accade che a Colobraro, paese in provincia di Matera, sia il paese della iella, in qualche il modo. Il paese più sfortunato d'Italia. Sì, c'è tutta una storia che adesso poi magari vi racconteremo piano piano, volentieri. Forse molti di voi la conosceranno già. Fatto sta che, visto che il Superenalotto adesso ha un montepremi di 90 milioni di euro, una cosa pazzesca, il Superenalotto stesso si è intenerito nei confronti di questa comunità, di questo paese, e gli ha regalato un bel sistemone per giocare, quindi ogni per uscire da questa leggenda o verità che colpisce questo paese ormai da un sacco di tempo, ovvero come il più sfortunato d'Italia. Perché se si vincesse questo montepremi, chiaramente si sarebbe una netta inversione di tendenza. Quindi ogni maggiorenne di Colobraro ha diritto a una quota di questo sistemone da 8.000 euro. E allora noi, insomma, vogliamo giocare un po' sulla sfiga, sulla iella, i vostri metodi contro la sfiga, le vostre scaramanzie, qualunque tipo di scaramanzia nei confronti di qualunque cosa, anche nei confronti di questo Superenalotto, perché chi è che non sta giocando lo dice comunque se vinco 90 milioni. Se avete dei riti prima dei momenti importanti, se avete delle parti del corpo che toccate nei momenti critici, tutte queste cose qua. È io, sabato per esempio, mattina a casa, ma Alessio lo vedo già pronto. Io a casa ho il cornetto, ce l'ho perché un ramo della famiglia ha origini calabresi. Quindi. E ci abbiamo il cornetto e il peperoncino, quindi ci abbiamo tutto, non ci manca nulla. Che anche quello bisogna saperlo usare quando si tocca, qua, non è facile. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco, vai. Questa Angry Heart di Bruce Springsteen, parliamo dell'appetito che va e che viene. Che viene mangiando. Parliamo soprattutto di Ramadan, è iniziato il 6 giugno, proseguirà per un mese e ne parliamo con una ragazza, si chiama Nadia Buzekri, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ha 24 anni ed è la prima donna, tra l'altro, presidente dei Giovani Musulmani d'Italia. Sì. Benvenuta intanto, benvenuta. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. E complimenti anche, perché già è una bellissima notizia il fatto che una donna 24enne sia a capo dell'Associazione dei Giovani Musulmani d'Italia. No, perché si dice sempre le quote rosa, abbiamo problemi in Italia. Sì. Beh, esatto, lei intanto è già presidente, invece negli Stati Uniti appunto si sta festeggiando che la Clinton è la prima candidata, ma presidente non ce l'hanno ancora avuta. Invece i Giovani Musulmani d'Italia già ce l'hanno. Già hanno una presidente. Beh, mi sembra una cosa bellissima. Sì, allora. Ne ho letta da un mese, sì. Ah, freschissima. Tu cosa fai nella vita, a parte essere presidente, rappresentante dei Giovani Musulmani? Studio, sono una studentessa magistrale in management. Ok, e dove vivi? Sono milanese d'origine, ma mi sono trasferita a Reggio Emilia. Ah, quindi ti sei spostata un pochino più a sud, in Emilia. Nadia, allora, tu stai, immagino, rispettando questa tradizione religiosa del Ramadan, immagino. Sì, sono a digiuno. sei di più in questo momento, quindi traducendo in parole povere, ne volevamo approfittare apposta, esatto, per chiamarti nel momento in cui, però adesso è facile, deve essere più difficile verso il tramonto, adesso è appena iniziato. Sì, esatto, cioè 5 minuti magari prima del tramonto diventa più difficile, però adesso siamo freschi di mattinata, certo. Anche gli studenti che magari devono studiare, piuttosto che io in primis ho esami, la mattina già sei più fresco. Certo. Ma noi vogliamo così fare una chiacchierata con te per capire un po' come funziona, perché è un momento importante per voi, e noi che stiamo al vostro fianco vogliamo un po' capire, perché siamo convinti che capirsi, conoscersi sia la base poi di tante cose, di tante belle cose. Cioè, quindi durante questo Ramadan, per esempio, il caffè lo puoi bere al mattino? Allora, partiamo dal presupposto che Ramadan è un precetto divino, ma non Ramadan. Perché sì. Ramadan è come dire giugno, quindi nel momento in cui io dico faccio il Ramadan è come se dico faccio giugno, perché è il nome di un mese, quindi in realtà non vuol dire niente. Certo. Perfetto, iniziamo a toglierci queste stupidate che diciamo tutti dalla mattina alla sera. Quindi come bisogna dire? Faccio il digiuno del mese di Ramadan o il digiuno di Ramadan. Ah, perfetto. E già impariamo delle cose. Bene. Poi, in cosa consiste? Consiste nel astenersi da cibo, bevande, fumo, rapporti sessuali dall'alba al tramonto, questo a livello formale, però implica anche comportarsi bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che Ramadan, cioè il digiuno, è inteso come una scuola per l'educazione, quindi io astenendomi educo alla forza di volontà, mi educo alla pazienza. Quindi Ramadan è inteso come un mese dove vi è più, cioè, più pazienza, vi è una maggiore forza di volontà, vi è una solidarietà verso magari chi ha meno, perché siamo abituati a mangiare tutta la giornata, nel momento in cui vieni privato per 15-18 ore dal cibo, capisci magari cosa prova chi il cibo magari non ce l'ha tutti i giorni. Quindi certo. Questo è il vero succo di Ramadan, quindi sviluppare una coesione, una fratellanza tra tutti i cittadini, perché ti fa capire che sia il ricco sia il povero digiuna, quindi è un nutrimento spirituale che deve elevare l'anima. Quindi questa è la logica dietro al digiuno. Ma toglimi una curiosità, Nadia. Coloro che rispettano il digiuno del mese di Ramadan o comunque tutti gli obblighi imposti dal mese di Ramadan, lo fanno in ossequio alla religione o è anche un rispetto di una tradizione, di una cosa antica che viene dal passato, un'abitudine? Perché se vogliamo fare un confronto può somigliare a quello che è la nostra quaresima, che sono quei 40 giorni prima del periodo di Pasqua. Conosci bene, insomma. Noi ci limitiamo a non mangiare la panna montata sostanzialmente, cioè a non mangiare i dolci pazzescamente pieni di cioccolato. E fine. Infatti c'è questa cosa che rimane anche tra chi non è profondamente religioso o non lo è per niente, potrei includermi tra quelli, che però in qualche modo il venerdì non si mangia carne. Esatto, senti che devi rispettarla questa cosa. Con il Ramadan è lo stesso o è diverso? Allora, per quanto riguarda il digiuno di Ramadan, va a toccare tutti, cioè in realtà è un atto privato. In che termini? Nei termini di tu puoi anche sostenere che sei a digiuno, poi c'è nessuno sa se magari entri in una stanza e mangi. Quindi veramente è un atto talmente privato che va a toccare te stesso, cioè nel senso che è tra te e Dio. Se digiuni lo fai per te, non è che lo fai per qualcun altro. Quindi va per di più a toccare il rapporto che hai tu, cioè te stesso con Dio, e quindi va veramente a toccare tantissime persone. Cioè chi magari anche non è praticante tutto l'anno, durante Ramadan sente quella scintilla. Mm-hmm. Ma per tornare alla domanda di prima, la giornata da cosa è scandita? Si può bere? Si può? No, neanche bere. Neanche dall'alba bere. Al tramonto. Ma nemmeno acqua? Nemmeno acqua. Ah, mamma mia. Mamma mia, poi giugno è un mese caldo, eh? Ma ci sono dei casi di collasso? Un ciupitino d'acqua. Allora, cioè, più che altro bisogna pensare a chi deve digiunare. Cioè deve digiunare una persona che è sana, una persona che ha una certa età, che si trovi, cioè, nella sua città, che non sia quindi in viaggio, Sì. Quindi cioè, i malati, piuttosto che in viaggio, i bambini, gli anziani, le donne in cioè, ci sono tantissime categorie di persone che sono esentate, che, diciamo, che sono esentate dal digiuno. Anche in viaggio, anche in viaggio. Cioè, in viaggio non, cioè, non, cioè, non devi digiunare se sei in viaggio. Allora, mi interessava questo perché, siccome prima parlavamo della squadra di calcio francese che ha deciso, i giocatori musulmani della Francia hanno deciso di non osservare il Ramadan, e allora mi chiedo, però in realtà non sono nemmeno tanto in viaggio perché sono in Francia, quindi è un problema. Se sono, in realtà no, se sono in trasferta, cioè se no sono in viaggio. Più che altro, a me viene in mente l'Algeria, ai mondiali 2 anni fa, i giocatori erano a digiuno, però era una scelta loro. E come andò a finire, dal punto di vista sportivo? Vabbè, hanno perso, ma non è che hanno perso perché erano a digiuno. Onestamente, giocare senza comunque forze nelle gambe non è il massimo. Non è facile, voglio dire, vediamo tutti gli sportivi che sono lì a bere gli integratori, ma se come, non puoi mangiare niente. Come giudichi, Nadia? È un lavoro, cioè è normale che se io devo, cioè, devo portare avanti un lavoro, c'è cioè, in determinate condizioni, penso anche ad un medico che debba operare per salvare una vita, cioè il digiuno di per sé non è venuto per rendere la vita difficile, ma per facilitarla. Quindi in questi casi, almeno dal tuo punto di vista, cioè non giudichi in nessun modo negativamente la squadra di calcio francese che ha deciso, per onorare questo impegno importante, di non digiunare. Ma a prescindere, io non giudico le persone, però nel momento in cui capisco che per loro è, cioè, è una priorità. Ci sono stati degli imam che hanno dato dei responsi giuridici per i quali è permesso, quindi cioè, chi sono io per dire a loro dovete fare questo, dovete fare quest'altro. Ma addirittura ho letto che alcuni imam hanno detto che si può recuperare il Ramadan facendo altri giorni di digiuno in altri momenti. Sì, non ti sì. so dire con precisione, cioè, ad esempio, come, ma se io sono in viaggio per 3 giorni, per quei 3 giorni non digiuno, in seguito digiunerò per recuperare durante tutto l'anno. Cioè farò tipo quei 3 giorni di digiuno che ho mangiato durante il mese di Ramadan, li recupero dopo. Ah certo, in coda. Io sarei sempre in inseguimento, credo che starei adesso cercando di finire il Ramadan del 2008. No, il trucco è quando il tramonto è alle 5. Certo. È più facile, lì è più facile. Perché lì è più facile. Sei bravissima, giusto. Se uno si sceglie quei giorni, ci sono alcuni giorni in cui fare Ramadan è perfetto. È come saltare la merenda. È perfetto. Senti, invece, la notizia che viene dalla Cina, che insomma, è abituata a non sorprenderci molto da questo punto di vista, con i divieti e le imposizioni, ha vietato il Ramadan ai dipendenti pubblici, appellandosi al fatto che devono lavorare, e quindi un po' quello che dicevi tu, però è una, come dire, un divieto abbastanza impegnativo. Che ne pensi? Che ne penso? Che la Cina non è che ci sorprende per quanto riguarda i diritti umani. Mi sembra assurdo vietare il digiuno ad una popolazione che è quasi il 60% musulmana, da studenti a dipendenti pubblici. Posso capire un medico che debba operare in determinate condizioni, però tutti, cioè, siamo abituati a lavorare, a studiare sotto il digiuno durante la Ramadan. Quindi lì è proprio una mancanza di libertà, perché nel momento in cui sei tu che scegli cosa posso fare o non posso fare, non rispettando la mia libertà d'espressione, in questo caso la mia libertà religiosa, vado ad intaccare i principi democratici di qualsiasi società civile sana. No, questo ci mancherebbe altro, anche perché ricordiamolo, se uno vuole digiunare può digiunare, e ci mancherebbe altro, nel senso non è che ti possono obbligare a mangiare. Però la domanda, secondo me, volendo cercare di comprendere, è capire se il fatto del Ramadan può essere un problema dal punto di vista, diciamo, produttivo, della situazione. Ma io te lo chiedo a te, in realtà, nel senso che mi sembra di aver capito che ovviamente nei paesi a maggioranza musulmana c'è anche un'attenzione, perché tutti lo sanno, quello è il mese, un po' come, adesso ti faccio un esempio stupido, durante la Quaresima nelle chiese non è che ti fanno vedere le torte, giustamente, no? Quindi ugualmente nei paesi musulmani c'è un'attenzione, perché si sa che quello lì è il mese in cui si fa il digiuno, e quindi c'è un'attenzione. In altre culture, quello che mi chiedevo, tipo in Italia, è più difficile fare il Ramadan perché non c'è nessunissima attenzione, quindi magari appunto quel giorno non so, un bambino mettono la partita di calcio, mettono il torneo, mettono qualcosa per cui è più portato a mangiare. Quindi è più difficile fare Ramadan in altri paesi? Diciamo più che altro che in paese a maggioranza musulmana vi è magari un orario più flessibile. Esatto. Quindi invece che iniziare alle 8, inizia alle 9, 9, cioè inizia un'ora dopo magari. Per quanto riguarda, cioè, più che altro la cosa che ha sentito di più la comunità musulmana in Italia è il fatto che nessuna istituzione abbia pensato: ma ci sono i musulmani, gli facciamo gli auguri per Ramadan. Piccola questione. Certo. Mentre invece, cioè, la questione che Renzi non ha fatto gli auguri per il Ramadan, giusto? Che invece Mattarella li fece l'anno scorso. Esatto. Mattarella gli fece l'anno scorso, mentre invece quest'anno è come se 2 milioni di cittadini fossero dei fantasmi. È giusto fare gli auguri agli amici musulmani che fanno il Ramadan, chi ne ha, io ho visto anche sui social, sono girati molti, molti auguri, perché è una consuetudine farlo. 800 24 00 24, ascoltatori, voi state rispettando il digiuno del mese di Ramadan oppure avete dei vicini di casa, degli amici che lo stanno facendo? Questa cosa vi crea dei problemi? Per esempio accade nella parrocchia di Sant'Antonio a Ventimiglia, che il prete che sta gestendo una comunità di migranti, 400-500 al giorno, quindi sta facendo un grosso sforzo, gli ha detto: no, però io non ce la faccio a gestire anche il Ramadan, perché per questioni di orario dovete pranzare tutti regolarmente, cercate di rispettare gli orari, perché altrimenti è un casotto. E non si sa se questa cosa quanto sia strumentalizzata, pretestuosa, o se veramente il prete non riusciva a gestire la cosa. Quindi insomma, Nadia, qualche volta c'è anche qualche attrito, no, con le usanze italiane, locali, questo fatto di digiunare e poi di mangiare la sera, magari si crea odori, problemi, rumori alle 10, alle 11 di sera. Ti è capitato? Io convivo con una ragazza non musulmana, l'ho già avvertita, però non faccio mai rumore, cioè mi sveglio magari la mattina a mangiare piuttosto che la sera e non abbiamo di questi problemi. Penso che quando c'è il buon senso le cose si risolvono. Io, cioè, ringrazio il parroco già per il lavoro che magari fa con i migranti, con i profughi, però magari dovrebbe appoggiarsi a qualche ente piuttosto che qualche volontario. Mi vengono in mente i centri a Milano dove sono attrezzati per Ramadan e quindi preparano già la colazione, cioè sanno che ci sono solamente due pasti per chi è musulmano, e vuol dire la colazione per la mattina la preparano la sera e poi il pasto della sera, che sarebbe una cena. Io penso più che altro all'attività che facciamo noi come giovani musulmani. Giusto il primo giorno di Ramadan a Messina e a Reggio Calabria i nostri volontari hanno organizzato un iftar collettivo, quindi una cena aperta a tutti i profughi, sì, assieme alle associazioni locali. Insomma, il messaggio è: volendo si può, ci si può organizzare, basta volersi venire incontro. Grazie Nadia, noi siamo andati lunghissimi, dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Grazie Nadia per grazie essere mille stata con noi, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Brevissima incursione, prima di dare la linea al traffico, perché siamo lunghi anche sul traffico. C'è un sms che qualcuno ci scrive all'sms 349-238-6666. Ma non capisco tutte queste attenzioni sul Ramadan. Il Ramadan non appartiene alla mia cultura, si adeguino alle regole di chi li ospita, senza avanzare molte pretese. Ma guarda, caro Roberto, che non c'è nessuna attenzione particolare. Io non rispetto né Ramadan né la Quaresima, io sono un eretico, non rispetto niente. Però conoscere, sì, sapere, informare, è la prima regola dell'intelligenza, capire. Non siete curiosi di sapere come funziona questo periodo particolare per molte persone che ci credono? E poi le regole di chi li ospita. Noi non è che abbiamo la regola che è obbligatorio ingozzarsi, quindi non è che vai contro una regola se decidi di fare un digiuno, ci mancherebbe altro. Capire, capire, capire, questa è la cosa fondamentale, è anche interessante e divertente. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco anche con i vostri metodi anti-iella, le superstizioni che avete. Superstizioni, se fate delle cose particolari prima degli esami, prima dei momenti importanti, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È un altro sms che dice, per esempio, sempre tornando a Ramadan, ai cristiani che rispettano la Quaresima nessuno fa gli auguri. E quindi anche ma non è vero però, perché si inizia a dire buona Pasqua, di solito a febbraio è carnevale, cioè è finito il carnevale, inizia la quaresima, e quindi, ma sì, ci facciamo gli auguri, no, ognuno per i suoi momenti importanti. Per i musulmani il mese di Ramadan è un mese importante, quindi è bello farsi gli auguri. Tutto lì, tutto lì. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, se volete raccontarci anche se voi state seguendo i precetti del Ramadan, o se il vostro vicino di casa, i vostri amici lo stanno facendo, cosa ne pensate, se questo vi crea dei disagi, perché naturalmente poi questo può succedere, no? Alle 10 di sera o alle 3 del mattino, gente a fianco che cucina e mangia, può sì, essere la anche spaghettata un di mezzanotte non è stata inventata dai musulmani, comunque, questo anche volevo dire. Questo, anzi, che è un momento straordinario, tra l'altro. Marco da Foggia, buongiorno, benvenuto. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo parlare del discorso della superstizione, della sfiga. Sì, perché, sì, sì. Ecco, niente, insomma, io ho un rito che faccio tutte le mattine che vado al lavoro, perché l'ambiente di lavoro è un po' difficile, insomma, così, diciamo così. Per usare un eufemismo. Ecco, per usare un eufemismo. Perché è un ambiente veramente terribile? È un ambiente... Oh mamma, è andato... Io sono del sud Italia, quindi il malocchio da noi è una cosa radicata, una cosa di cultura, ed è una cosa che io ritengo funzioni, nonostante mi ritengo un ragazzo di cultura, di scienza, insomma. Però gli influssi negativi sono qualcosa, insomma, che potrebbero disturbare la tua serena vita. La quiete, la serenità, sì. Cioè tu sei una persona razionale, però dici... La sfiga è qualcosa che aleggia nell'aria. E... Sì, non solo la sfiga, anche il malocchio. Il malocchio mi sembra di capire, giusto? Anche il malocchio. Che è una cosa di più della sfiga, certo, perché è quella che qualcuno ti indirizza proprio contro di te. Ecco. Ecco, sì, il malocchio è quello che ti indirizza, la sfiga è quello che è inevitabilmente, come dire, il tuo accade, ti porta dietro. Certo, sì, certo. Sì, sì, sì. Allora io la mattina, prima di andare, di entrare in porto, perché lavoro in porto, faccio una toccata ai gioielli di famiglia, e non appena arrivo in porto, noi abbiamo delle grosse bitte, sono di ferro, e di lì con le corna tocco le corna. Poi di tanto in tanto, quando la giornata lo richiede, l'occasione lo richiede, ricordo che mia nonna mi diceva in dialetto di Manfredoni, provincia di Foggia: Kim nomen possa vina ballambrond, for de mamme, for de patem, for de la mia innamorata. Quindi chiunque mi nomini male possa avere una palla in fronte, fuori di mia mamma, di mio padre e della mia moglie. Certo, esclusi mamma, papà e moglie, perfetto, certo. Benissimo. Mauro, Marco, grazie. Marco. Direi che abbiamo inaugurato bene la serie delle telefonate. Molto bene, molto sui bene. Metodi scaramantici. Sei il primo candidato. E ci voleva un ascoltatore naturalmente del sud. Honey, won't you please sing another song, honey, won't you please be gone? Your sentimental shake there rattles through my bones. Honey, honey, The Milk Carton Kids. Vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Ci sono le playlist del programma. La notizia riguarda il miele e le api, soprattutto perché c'è un accordo straordinario, secondo me una bella notizia quasi poetica, che arriva dall'Emilia. Verrà prodotto un mais che salva le api. Con noi Mauro Tonello, presidente della Società Italiana Sementi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Non abbiamo moltissimo tempo perché abbiamo avuto un problema con la linea mentre stavamo facendo la telefonata, quindi abbiamo 3 minuti. In cosa consiste questo accordo per cercare di salvare le api, che sono, sappiamo, importantissime, no? Ma diciamo che il concetto finora di chi piantava mais era quello che piantando mais si ledeva un po' la salute delle api. Oggi invece, attraverso a chi acquista del nostro mais, gli forniamo del seme di facelia, una pianta che è bellissima da vedere, un azzurro veramente incantevole e violaceo da vedere, e che è particolarmente miellifera. Le api lì si divertono, hanno una concentrazione, un'attirazione molto particolare, fanno un rifornimento di polline straordinario e producono un miele altrettanto straordinario. Ma è bellissimo. Quindi, diciamo, quando uno compra i seme per il mais, voi in omaggio gli date i semi per questa pianta che aiuta le api. Che bellissimo. Le api fioriscono anche in un periodo un po' particolare dove c'è già scarsità di fioriture, e quindi le api, diciamo, gli abbiamo dato proprio un'alimentazione in più che oggi non trovavano, che vuol dire per loro ovviamente salute in più. Stiamo pensando anche ad un marchietto per cui la cosa potrà arrivare fino al prodotto finale, sia in termini di miele, sia in termini di quegli allevatori che acquisteranno quei mangimi che contengono questo mais, che potrà arrivare sul burro, sul formaggio, sul latte, e quindi anche il consumatore potrà sapere un centesimo in più, potrà però sapere che ha contribuito a salvare le api, a certo, migliorare l'ambiente, certo, a salvare le api. Da quando anche alla Casa Bianca Obama ha fatto una task force per le api, abbiamo capito, anche più testoni di noi, che queste api sono veramente... Beh, da quando Einstein disse sì, se sparissero le api il mondo finirebbe in quattro anni. Certo, e noi siamo particolarmente preoccupati perché invece delle api ne abbiamo estremamente bisogno. E quindi complimenti per questa iniziativa della Società Italiana Sementi. Purtroppo non abbiamo più tempo, Tonello. Grazie comunque grazie per essere mille stato con noi in così breve grazie tempo a raccontarcelo. Vedete come tante piccole cose si possono fare. Questa è una notizia quasi poetica, l'ho trovata. Questo del poi belli questi fiori blu violacei di facelia, me li immagino, bisogna sì, piantarli. E poi è bello che sia da un lato e dall'altro, perché loro regalano le sementi, ovviamente l'agricoltore deve anche dedicare un pezzo di terreno e coltivarlo, perché non è che i semi li sì, mangia, li deve seminare. Ci vuole anche un po' di buona volontà. 800 24 0024, cari ascoltatori, vi aspettiamo subito dopo il giornale radio per stare insieme a noi. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm boring, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm boring, so I'm taking my time on my ride. Questa che state ascoltando è Si può fare. Questo che abbiamo appena ascoltato è il nostro Si può fare in musica, ovvero Ride dei 21 Pilots, che è una canzone che ci è stata segnalata da Marco Russo. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre in cerca di Si può fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori, o anche semplicemente se avete ascoltato una canzone che vi piace e che pensate che contenga in sé il concetto di Si può fare, allora vi chiediamo di segnalarcela, perché poi noi la faremo ascoltare e la metteremo nella nostra playlist. Come farlo? Ce lo potete segnalare scrivendoci alla nostra mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri account social. Su Facebook Si può fare /radio24, oppure su Twitter @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini. E c'è anche il mio @AleMaurizzi. E tutte le nostre scelte musicali le ritrovate poi, tutti i nostri Si può fare in musica che accompagnano i temi della puntata, sul sito di Radio 24 alla pagina di Si può fare. Raffica di messaggi al 349-238-6666 e anche al telefono sul Ramadan. Allora, intanto dite al conduttore che si dice Ramadan. Ha ragione, io lo sappiamo. Intanto mi parte Ramadan. Può essere anche a me, nel caso chiedo scusa. Poi Alberto da Milano dice: io lavoro con molti musulmani, durante questo digiuno li trovo più incazzati. Dice: è possibile che naturalmente il digiuno può anche creare qualche turbamento, e speriamo che non crei disagi. E poi un altro ascoltatore che dice: cosa sono queste famosissime regole del Ramadan, le regole del gioco dell'oca? Nel 2016 dobbiamo ancora sentire queste cavolate, dice Danilo. Ma non so se siano cavolate, sono regole di questa religione, così come noi abbiamo, o chi insomma segue la religione cattolica ha le sue. È un po' come dire appunto che la Pasqua è una cavolata. È santa, è questa, esatto, la Pasqua, no? È una cavolata, il Natale è tutta una cavolata. Io non credo che sia tutta una cavolata, se ci sono delle persone che ci credono bisogna intanto rispettarlo, ma soprattutto provare a conoscere, capire, che è la prima regola, lo ripeto, dell'intelligenza, perché altrimenti cosa facciamo? Ci mettiamo le mani davanti agli occhi, non mi interessa, non voglio sapere, non me ne frega nulla, sto chiuso dentro casa mia, andatevene tutti a casa vostra. Esatto. Tra l'altro, se posso aggiungere, Nadia Buzekri, che abbiamo sentito prima, che è la prima donna presidente dell'Associazione dei Giovani Musulmani d'Italia, ha spiegato delle cose sul Ramadan secondo me molto precise, cioè questo fatto che nel momento in cui tu per esempio ti privi di cibo e di liquidi, comprendi le persone che normalmente sono private di cibo e di liquidi. È anche una questione di renderci tutti uguali, perché il digiuno è identico, mentre è identico fra tutte le classi sociali, fra ricchi e poveri, mentre mangiare è diverso, perché uno magari mangia una scatoletta da 20 centesimi e l'altro invece fa un pasto luculiano. Nel digiuno siamo tutti identici. Giusto. Quindi in realtà, al di là della questione religiosa, che poi uno può crederci o non crederci, come sempre poi ci sono cose che sono legate a cose molto più concrete. Ha detto che non giudica, per esempio, i giocatori della Francia che hanno deciso di non rispettare il Ramadan per ossequiare le partite di calcio e per essere in forma durante questi europei. Ha detto: io prima di tutto non giudico, poi se uno ha degli impegni importanti, delle cose da fare, è un medico che deve curare i bambini, donne in gravidanza, anziani, insomma è una regola, ma non è per come ce l'ha raccontata lei, non è una regola assoluta. No. E già questo mi sembra una cosa importante in questo soprattutto contesto. In generale, perché per i musulmani è il rapporto fra il singolo e Dio, quindi in realtà è un tuo rapporto con il digiuno, e poi nel caso ne paghi tu le conseguenze, ma non è una questione che arriva una sanzione. Ecco. Perché sappiamo invece che in altre situazioni l'integralismo, il fanatismo, il fondamentalismo nell'interpretare le regole religiose è un problema che c'è anche nel mondo dell'Islam. Invece la persona con cui abbiamo parlato questa mattina è stata molto rassicurante da questo punto di vista. Andiamo con gli ascoltatori. Primo da Vicenza, anzi no, c'era prima Fabio da Sanremo. Andiamo in ordine di arrivo. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io vorrei dare una testimonianza perché diciamo sono volontario nella parrocchia di Oliverino di Ventimiglia, dove stiamo accogliendo... Ah, quella famosa parrocchia di cui abbiamo citato la notizia, che il parroco ha detto... che cosa ha detto esattamente? Ce lo dica lei? Ma innanzitutto bisogna fare un encomio ad un rito Alvarez, perché si è caricato per una 400 settimana... 400 persone. Sì, ma appunto, ma senza aiuto da parte dello Stato, totalmente assente, solo con l'assistenza dei volontari qua della diocesi di Sanremo Ventimiglia, quindi io direi che bisognerebbe invertire un attimo le posizioni. No, va bene, ma non è questione di posizione, questo era implicito, anzi Nadia ci ha tenuto, Nadia Buzekri, a ringraziare il parroco per quello che fa, lo ha fatto lei, si figuri. A noi, noi siamo andati sulla notizia, perché lui a un certo punto, per questione, ma io non lo giudico, dico che se per questione di ordine pratico... Quel giorno lì io ero lì, quindi se vuole gliela racconto come è successo. Certo. Allora, innanzitutto vorrei dire questo, 18 anni che lavoro in Africa in paesi anche musulmani, quindi se vuole glielo spiego. No, però non ci faccia le premesse, ne abbiamo appena parlato del Ramadan, ci spieghi quello che è successo, che è più interessante, perché lei era lì. Per spiegarglielo le devo dire solo una cosa, che il Ramadan è un'astensione giornaliera dal cibo, non è un digiuno. Sì. Cioè, questo l'ha spiegato tramonto, benissimo Nadia. Queste persone mangiano. Sì. Certo, è un digiuno dall'alba al tramonto. No, mi scusi, il digiuno è astenersi totalmente. Sì. È un'astensione dall'alba al tramonto. Esatto. È un digiuno dall'alba al tramonto. Se lei va a verificare le statistiche dei paesi dove si fa il Ramadan, guardi che vi è un incremento di consumo del cibo in quei 40 giorni. Certo. Cioè perché la dopo... gente mangia di più, non di meno. Sì. Quindi, questo è da dire a tutti, è un tipo di astensione, quindi è una penitenza che viene compiuta in questa maniera, va bene, per carità. Lì cos'è successo quel giorno? Era giovedì, io ho preso servizio, anzi era mercoledì, mi scusi, ho preso servizio alle ore 15 del pomeriggio, va bene? E abbiamo cominciato a registrare gli immigrati sul portale della Caritas, perché bisogna fargli una tesserina con la quale poi si recano in cucina per mangiare, perché quella cucina non era idonea per dare 1000 pasti in un giorno. Avevamo i pasti limitati perché il cibo veniva fornito da volontari, cioè da famiglie che lo portavano per darglielo. Non c'era lo Stato, non c'era la polizia, non c'era la Croce Rossa, c'era nessuno. Quindi cosa è successo? È successo che in quella giornata lì abbiamo registrato, credo, 300-400-500 persone eritrei, etiopici, somali, addirittura io glielo dico, io alle 10 devo chiudere il programma e devo andare a casa. Io avverto perché a un certo punto dovrò togliere la linea, Fabio. Sera, alle 11 di sera in registrazione c'erano ancora 50 persone e non c'era più cibo. Cominciavano ad arrivare quelli che avevano... diciamo che seguivano il Ramadan e che pretendevano a mezzanotte di riaprire la cucina ed erano affamati, per nutrirsi, suppongo. Capisce che cominciava ad esserci i bollori, anche i bollenti spiriti, no? Quindi onde evitare litigi eccetera eccetera, a un certo punto si è detto: se volete mangiare e voi volete seguire il Ramadan, vi prendete il sacchetto o il cibo prima, durante il giorno e poi dopo il tramonto lo mangiate. Dopo, quindi calma. Diciamo la verità, non è che si possono raccontare le storie così, Guardi Fabio, io non ho detto così. Io non ho detto niente di particolare, io ho detto semplicemente che il Ramadan può creare dei problemi, degli attriti tra abitudini, persone che seguono queste abitudini. In questo caso il parroco, che meritoriamente sta dando una mano a queste centinaia di persone, ha detto: guardate che io non ce la faccio a venirvi dietro, quindi arrangiatevi. E secondo me questo è comprensibilissimo, questo abbiamo detto. Fabio, lei ha chiarito, ha spiegato e ha confermato quello che avevamo detto, non il contrario. Grazie. 800 24 00 24, c'è ancora spazio per i vostri interventi. E anche, però, partendo dalla storia del paesino di Colobraro, in provincia vogliamo di Matera, vogliamo sentire le vostre superstizioni. Le vostre superstizioni, che poi è giusta, no? È il diavolo e l'acqua santa insieme, diavolo, religione e superstizione. Il paese a cui il Super Enalotto ha regalato un sistema da 8.000 euro per fargli uscire dalla Iella, dal paese che porta Iella, perché c'è un montepremi di 90 milioni di euro. Quindi i vostri metodi anti sfiga, raccontateceli. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Per esempio, tanto per fare un esempio, la nostra Claudia Schiattone mi raccontava prima che lei, prima di ogni esame, andava vestita all'università di blu. Era il suo metodo per affrontare serenamente questo piccolo problemino degli esami. Della fortuna, perché poi fortuna. È questo è il fatto che noi immaginiamo, perché magari il primo esame lo passiamo vestiti di blu e poi diciamo vabbè, allora dovrò fare ad ogni buon conto che cosa faccio. Intanto inizio a vestirmi di blu, perché non è che succede? Cambio qualche cosa. Se adesso, squadra che vince non si cambia. Adesso che ci sono gli europei, per esempio, se è la prima partita dell'Italia che guardi, siete in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, disposti in un certo modo, se si vince poi rimettiamoci tutti così la prossima partita, perché sennò io sempre così dice. Questa cosa noi la facciamo sempre, nel senso purtroppo non puoi venire perché quando abbiamo vinto eravamo solamente noi quattro e quindi tu non puoi venire questa volta a vedere la partita. È un grande classico. E allora, cari ascoltatori, cosa aspettate a chiamarci per raccontarci i vostri modi con cui affrontate questo problema della fortuna sfortuna? 800 24 00 24. Adesso invece sentiamo una bella intervista. Carlo, tu in settimana non c'eri, non giustamente c'ero, perché sei con noi solo il sabato e la domenica, ma questa intervista non potevamo farla di mattina perché lui è in America. E c'è quel piccolo problema del fuso orario che hai cercato di spiegarmi con degli SMS durante questa settimana. Esatto, perché mi spiaceva non esserci in questa intervista. Abbiamo affrontato così, è una storia incredibile, è un personaggio italiano, è un si può fare anche questo ed è al cuore, proprio nel centro di vicende planetarie. Vai, sentiamola. Sapete se un film è in porto? The Others, sono loro gli spettri, bello, quel sesto senso. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con questo caparezza Kevin Spacey, il protagonista della serie TV americana ambientata alla Casa Bianca. Entriamo anche noi nel vivo della politica americana. Il nostro inviato, meglio infiltrato, è Mattia Tarelli, 26 anni, milanese. Buongiorno Mattia. Buongiorno Alessio, buongiorno a voi. Infiltrato perché non tutti forse conosceranno il suo nome, ma è in questo momento uno degli uomini più vicini ad una delle vicende più importanti a livello planetario, perché tu Mattia sei stato e sei ancora in qualche modo stagista all'interno dello staff di Hillary Clinton. Assolutamente sì, devo dire gli ultimi giorni sono stati fantastici tra la vittoria dell'altra sera, certo, dopo la California della nomination, insomma ieri l'endorsement di Barack Obama. Del presidente. Beh, come dire, non un endorsement da nulla. No, era in qualche modo prevedibile, cioè sarebbe stata una notizia, certo, che se avesse detto no, non appoggio Hillary Clinton. Ma la nomination a questo punto è certa matematicamente? La nomination è certa matematicamente tra i delegati normali, diciamo, e i super delegati, ma insomma sarà ufficiale durante la convention democratica a luglio, si svolgerà a Filadelfia, però insomma i numeri, il magic number è stato raggiunto. Ci sono. Tu hai detto anche che sei rimasto sconvolto alla prima volta che ti sei trovato di fronte al, vediamo se lo pronuncio bene, al caucus, com'è che si dice esattamente? Il caucus. Cioè che spieghiamo anche esatto di cosa stiamo parlando. Questi caucus sono queste riunioni di grandi elettori. Esatto, ma guarda, i caucus sono sostanzialmente la maniera di votare che tanti stati hanno. Tanti stati votano con le primarie, quindi come votiamo noi con le tessere elettorali, tanti altri votano con questi caucus, e sostanzialmente anziché scrivere il nome del tuo candidato sulla scheda, tu entri in una stanza e ti sposti fisicamente verso l'angolo che appartiene al tuo candidato, quindi nell'angolo di Hillary o nell'angolo di Bernie Sanders. Un'antica tradizione che deve essere abbastanza, tu hai detto sei rimasto sconvolto perché era una cosa che non avevi mai visto. È assolutamente vero, innanzitutto prima cosa il voto non è segreto, perché tu, certo, nel momento in cui ti sposti fisicamente verso l'angolo tutti sanno cosa stai votando. E in secondo luogo, quando la stanza è piccola ma gli elettori sono tantissimi, viene fuori un casino pazzesco che uno si immagina come tipicamente magari italiano, e invece vi assicuro che è molto peggio di quanto possiate immaginare, però molto divertente. Quello era lo Iowa, il primo caucus a cui tu hai assistito. Chi vinse fra Clinton e Sanders? In Iowa vinse Clinton di pochissimo, dello 0,3%, fu una vittoria sul filo del rasoio. Poi avete tremato un po' per la California, perché lì sembrava... Devo dire sì, perché negli ultimi giorni i sondaggi sono peggiorati gravemente, sono avvicinati molto a Bernie Sanders. Ecco, infatti il successo alla California, almeno per quanto mi riguarda, è stato abbastanza inaspettato. Sono rimasto, non mi aspettavo questo divario, il che vuol dire che Hillary Clinton sulle minoranze, quindi sui latinos e sugli afroamericani, sulle donne anche, diciamo, che si può qualificare come minoranza, ha fatto benissimo, è riuscita a tenersi, come dire, il consenso che si era conquistata pian piano. Hillary Clinton, prima donna quindi candidata a delle presidenziali americane, un risultato storico. Magari adesso ci facciamo anche un po' d'analisi, però è la tua storia anche che vogliamo raccontare, un vero si può fare il tuo, Mattia, perché tu sei milanese, hai studiato a Milano, hai studiato giurisprudenza, poi hai fatto un master in America, e poi com'è nato questo ponte verso la Casa Bianca? Guarda, io in realtà sto ancora facendo il master in Iowa, sono stato, per questo sono qua a New York, e in Iowa sono stato nella mia pausa invernale, quindi ho fatto la mia application durante il primo semestre, quindi ho fatto la mia domanda per far parte dello staff e sono stato preso in Iowa, quindi sono stato uno dei... Ma l'hai mandata, diciamo, l'hai mandata senza magari pensarci, crederci più di tanto, quante altre application hai riempito, hai mandato in giro per il mondo? Ne ho mandate una marea. Esatto, semplicemente, ecco, magari in questa, io a Milano, insomma, avevo già fatto tante campagne elettorali, eccetera, quindi avevo un curriculum, certo, che era essere uno dei pochissimi stranieri all'interno della campagna è una cosa che insomma è abbastanza particolare, molto divertente. Ma tu hai detto che nel curriculum avevi messo l'esperienza come quando avevi affiancato Stefano Boeri alla candidatura alle primarie qua di Milano, candidatura non brillantissima perché Boeri perse, cioè questo endorsement di Boeri, che è un grandissimo architetto, il Bosco in Città, Milano pluripremiato, però come politico non ha lasciato una traccia elevatissima in Italia, è stata un'arma segreta. Questo non lo so se è stata l'arma segreta. Sicuramente ti posso dire che Stefano Boeri da assessore alla cultura ha fatto un lavoro del Comune di Milano, ha fatto un lavoro fantastico ed era stato anche il più votato dei candidati nella lista del Partito Democratico ai tempi, insomma, non aveva vinto le primarie, però insomma era andato alla grande e penso che in realtà avrà un futuro in politica, secondo me. Stai facendo una previsione, già mi fai lo stratega, l'analista che mi prevede il futuro, può darsi. Boeri è sempre molto attivo, comunque sempre molto propositivo, tenta di aiutare l'amministrazione sia a Milano che a Firenze, quindi credo sia comunque una persona molto vicina alla politica, che lo sarà sempre. A me piacerebbe che ritornasse a farla in maniera attiva, glielo ho già detto naturalmente. Senti, Hillary Clinton, abbiamo detto, prima donna che sarà candidata per le presidenziali che si terranno in novembre negli Stati Uniti, quindi una grandissima novità. Lei però è una donna, aveva già provato, moglie di Bill Clinton, è una donna dell'establishment, per usare una parola inglese, cioè è un po' un compromesso come innovazione, cioè l'America resta alla frontiera delle novità, delle innovazioni, però con questo compromesso, perché lei non è nuovissima, questo si può dire, no? Ma guarda, si può tranquillamente dire, insomma, lei evidentemente è da una vita nel Partito Democratico. Io credo che, ecco, la differenza tra lei e Bernie Sanders, e si vede subito, è che a Bernie Sanders non frega nulla del Partito Democratico, questo è stato chiarissimo e lo è ancora, mentre Hillary Clinton, mentre faceva fundraising per se stessa, faceva anche fundraising per tutti i candidati del Partito Democratico sul territorio. Quindi in questo senso, se vuoi, una donna di partito, che è una cosa che poi qualcuno può vedere negativamente, che io vedo assolutamente in maniera positiva, perché ha un curriculum, no? Anni e anni di militanza all'interno dello stesso partito. Se non fosse brutto, si potrebbe dire che è una donna macchina. Si dice uomo macchina, ma donna macchina, mi rendo conto che suona un po' peggio. Sì, suona un po' malino, ecco. Però no, insomma, io credo che lei sia una novità, nel senso che ha veramente un programma elettorale, secondo me, molto innovativo, nel senso che ha una grande precisione. Su ogni piccolo punto del programma c'è una grande precisione sull'intento, sui mezzi con cui lo si vuole fare e sui tempi di percorrenza. Ma visto che in America vanno molto le analisi dei flussi elettorali, si cerca di essere molto scientifici anche nelle scienze politiche, qual è il bacino elettorale di Clinton, per esempio, tra i giovani, cioè tra i tuoi coetanei americani, fa breccia una candidatura come quella di Hillary? Ma guarda, diciamo che finora, anche se non riesco bene a capirne la ragione, abbiamo fatto un po' fatica tra i giovani, è stata una delle categorie appunto di flussi elettorali tra cui le ha fatto più fatica. Secondo me il coinvolgimento dei giovani aumenterà pian pianino fino poi al giorno dell'elezione, anche perché adesso ci sarà a breve, mi auguro, l'appoggio di Bernie Sanders e quindi il suo supporto alla candidatura di Hillary, con anche l'appoggio di Barack Obama, e credo che adesso lo scontro con Trump diventerà veramente intenso e quindi credo che ognuno, soprattutto un giovane, vorrà prendere una posizione. Ma faceva più paura Bernie Sanders come avversario nelle primarie o adesso temete di più Donald Trump? È bella domanda e soprattutto sembrano due candidati agli antipodi, quindi Trump, se vogliamo, un'estrema destra tra virgolette, mentre Bernie Sanders un'estrema sinistra, eppure tantissimi cittadini con cui ho parlato sono disposti a votare, a scambiarsi tra uno e l'altro, perché entrambi rappresentano elementi anti-establishment, come dicevi tu prima. Quindi, nonostante la loro lontananza da un punto di vista ideologico, tanti elettori diciamo che ce li hanno in comune. Questo effettivamente è abbastanza inquietante, però ecco, non saprei dire quali dei due mi ha spaventato di più. Forse Trump, perché la sua vittoria sarebbe devastante per il paese. Sogni per il futuro, Mattia? A 26 anni hai conquistato anche tu la Casa Bianca, si può dire. Ma magari, no, i miei sogni sono finire bene il master, che mi sembra... Non farti bocciare idea. Agli esami, che ancora... Non farmi bocciare agli esami mi sembra un'ottima idea e dopo decidere, mi piacerebbe molto tornare in Italia, subito dopo, e quindi l'obiettivo rimane quello. Ma ti hanno fatto fare le fotocopie? Gli stagisti in genere sono messi a fare, lo puoi dire tranquillamente, perché siamo talmente affascinati da tutto quello che succede in America che già fare le fotocopie alla Casa Bianca è sarebbe un fatto eccezionale. Ma guarda, ti devo dire la verità, tutti, soprattutto in Iowa, si sono messi a disposizione della campagna in ogni maniera, ti assicuro, a partire anche dalla mia capa, cioè se c'è anche da portare un pacchetto, correndo, fare dal Pony Express a qualsiasi altra cosa, devo dire tutti sono sempre molto messi a disposizione. Forse gli Stati Uniti in quello insegnano un pochino più di umiltà, e quindi senza nessun problema ho fatto di tutto. Ma tu l'hai seguita, pur essendo in America, soprattutto essendo in America, la serie TV House of Cards, qualche puntata? È realistica? Descrive un po' quello che tu hai vissuto? Ma, guarda, diciamo che sono non sono nelle stanze in cui avvengono quelle cose, però ecco, io mi auguro che questo sia che House of Cards sia molto lontana dalla realtà, ecco. Speri che sia una caricatura, ma sotto sotto tutti temiamo che sia assolutamente, tutti abbiamo questo tremendamente timore, realistico. Forse non pensa, ecco, che un candidato, un politico di ogni sorta ammazzi, come dire, un Peter Russo della situazione. Ecco, quello mi sembra francamente un po' eccessivo. Grazie Mattia, grazie Mattia Tarelli, ti lasciamo andare a lavoro perché sennò lo licenziano. Adesso stai continuando il tuo stage alle Nazioni Unite. In bocca al lupo, ciao, a presto. Buona giornata, grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora di nuovo buongiorno, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E questa era l'intervista a Mattia Tirelli, il ragazzo stagista presso la Casa Bianca, adesso all'ONU, ma tornerà con Hillary Clinton. Insomma, un italiano di soli 26 anni nel cuore di queste vicende nevralgiche internazionali. Beh, bello. Avete parlato anche di House of Cards, questo mi sembra straordinario, addirittura Peter Russo, citazioni straordinarie. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo, soprattutto l'argomento Ramadan ha preso piede tantissimo, soprattutto con telefonate e messaggi critici di gente arrabbiata perché secondo loro abbiamo difeso gli islamici, i musulmani, ma io credo di non aver difeso nessuno, volevo solo conoscere, sapere, perché credo che sia la base di tutto. Poi il fatto che per esempio la sera si facciano feste, si gozzovigli, si mangi tantissimo tra i musulmani, ma questo non è un segreto però, è la regola, quindi ma non certo. È un digiuno come quelli di Pannella, ma è un digiuno temporaneo. Che no. Perché si dovrebbe essere come quello di Pannella? Non lo so. È un rito che parte molto prima di Pannella, è come la nostra Antepannella, è come la nostra Quaresima, che prima della Quaresima cosa succede? Il carnevale, per giorni si mangia, ci si abboffa, ci si riempie continuamente, dopo 40 giorni la Pasqua si mangia, ci si abboffa. Bisognerebbe e invece loro lo fanno quotidianamente. Come ognuno... c'è prima di Cristo e dopo Cristo, prima di Pannella e dopo Pannella, perché il mondo da quando c'è Marco Pannella è cambiato tantissimo, anche nel campo dei digiuni. Graziella, PP e DP da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono perfettamente in linea con voi, volevo dire questo. Sì. Io ho l'opportunità di conoscere donne musulmane, teniamo un corso di italiano al pomeriggio proprio per donne straniere in Italia. Sì. In questi giorni abbiamo parlato del Ramadan. Insomma, quello che emerge, ho avuto anche opportunità negli anni di conoscere, di lavorare in paesi musulmani, quello che emerge per me importante è un atto di fede, questa è la cosa importante, alla quale noi occidentali per la maggior parte non siamo più abituati. Poi si tende a esagerare le situazioni, perché anche il gozzovigliare va preso con parsimonia, questa informazione. Ad esempio, alcune di queste donne hanno mariti che si alzano alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, quindi non è che gozzovigliano per andare al lavoro, mi scusi. Quindi non è che gozzovigliano. Ma io ho usato questa espressione sere. Per dire che in alcuni ambiti, il Ramadan può diventare anche una festa, anche di più, cioè un'occasione. Ma come succede anche con le feste religiose cattoliche? Esattamente. Dove a Natale la gente si ubriaca. È quello che dicevate voi prima. Esatto. Io ho avuto qua nel cantiere dove abito il periodo di Ramadan 2 anni fa, l'anno scorso con un caldo pazzesco, sì, operai al quale ho offerto dell'acqua fresca, mi hanno detto di no perché erano in Ramadan. Quindi per me vale questo atto di fede. Poi per alcuni so che è una scelta voluta, per altri può essere imposta dalla famiglia, dalle abitudini, che però per me vale questo sarebbe rispetto, di più un problema, perché le cose per un'amica ortodossa, sì, sì, che il periodo di Pasqua ancora adesso lei fa digiuno, certo, durante il giorno e per tutto i 40 giorni, sì, rinuncia alla carne, rinuncia ai dolci, ai formaggi, esatto, e così via. Va bene, Graziella, buona giornata, grazie, abbiamo anche altri ascoltatori. Da noi si è un po' persa la questione del digiuno, il nostro modo di rispettare la Quaresima si è un po' affievolito, non so se questo sia un bene o un male. Secondo me in realtà è molto cambiata la comunicazione, sì, in questo forse dico, io non sono particolarmente interessato ai riti religiosi, ma i musulmani in qualche modo sembrano lo comunicano meglio, nel senso che sembrano contenti di fare il Ramadan. Invece da noi la Quaresima difficilmente viene venduta come una cosa piacevole. Invece è giusto, se tu senti i veri e bravi cattolici te ne parlano in maniera positiva, invece da noi non se ne parla tanto di Quaresima, mentre loro di Ramadan ne parlano tanto. Adesso andiamo in Puglia, qua piove o quasi a Milano, vediamo in Puglia se c'è il sole. Le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Allora stiamo parlando di lei, della pianta dalle mille risorse, la canapa che noi sappiamo in Puglia c'è tutto un filone. Vogliono diventare il distretto addirittura in Italia della canapa, della produzione di canapa. Sorrido perché vogliamo, sì, proprio cerchiamo la polemica con gli ascoltatori, è Ramadan e la sfortuna la canna, con la scaramanzia e adesso le canne. Va bene, però c'è un progetto serio che riguarda il recupero dei terre inquinate dalla diossina per via dell'Ilva e non solo, grazie anche proprio alla produzione di canapa, che si è scoperto è una pianta che ha anche questa virtù disintossicante. Con noi il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. E allora ci racconti, Gianni, cosa state immaginando di fare con la canapa in Puglia attorno all'Ilva e perché? Beh, il perché credo che sia purtroppo noto a tanti. L'Ilva è il risultato sicuramente di un modello di sviluppo insostenibile per questa regione, che oggi ci sta lasciando questa eredità di lunghi anni di disattenzione. L'area, diciamo, attorno a Taranto, 20 chilometri attorno il centro di produzione dell'Ilva, ha dei divieti, particolarmente per quanto riguarda il pascolo, perché sono state riscontrate tracce di diossina e anche di metalli pesanti. Quindi è chiaro che dobbiamo trovare il modo di dare delle risposte sia al territorio, sia soprattutto a chi quei terreni oggi non può più coltivarli o non ci può più fare quello che magari ci faceva un tempo. E rispetto a tanti altri sistemi che sono sicuramente più onerosi, che possono portare al risanamento dei terreni, si è ipotizzato, ma chiaramente non è l'unica area e probabilmente non sarà l'ultima, ma si è ipotizzato di utilizzare il sito risanamento e la canapa, rispetto alla canzone di introduzione, sì, qui parliamo di cannabis sativa, chiaramente. Sì, quella senza il principio attivo, per intendersi. È quella che normalmente dovrebbe mantenere una concentrazione di principio attivo al di sotto dello 0,2%, quindi quindi no, no, no, ma poi, noi no. Ci divertiamo in realtà a mischiare il concetto, sì. Ma lo spieghiamo molto spesso, la canapa è una pianta straordinaria al di là di tutto, anche al di là dell'effetto psicotropo e della questione, diciamo, della droga. È veramente una pianta incredibile con la quale si fanno mattoni, con la quale si fanno materiali, lo ricordiamo sempre. Poi ogni tanto, anche se è mattina, scivoliamo nel mondo canna, ma ovviamente giustamente ricordiamo che non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di quello, ma della canapa con basso principio attivo, che però è una pianta che è già stata usata altrove, anche credo in America ci sono delle sperimentazioni, proprio per che ha questa capacità di ripulire i terreni. Sì, è chiaro, adesso avere la certezza che dopo anni di coltivazione di canapa potremo avere la detossificazione totale dei terreni, ancora non l'abbiamo, però è chiaro che diventa una risposta importantissima, perché l'alternativa è, come dicevo, o dei trattamenti industriali di risanamento, ma che quindi sostanzialmente l'agricoltura verrebbe doppiamente danneggiata, perché non può più fare il proprio mestiere, perché poi il mestiere, diciamo, del risanamento non ce lo fanno fare. Invece noi, devo dire, molti dei nostri soci, come col Diretti Puglia, ce lo stanno chiedendo in quell'area, dobbiamo dare delle risposte in maniera tale da evitare rischio di desertificazione e abbandono di quelle aree, e dare delle risposte anche economiche. Come dicevate, la creazione di un polo per la canapa potrebbe essere una risposta importantissima in un territorio che, ripeto, è stato ferito e sotto certi aspetti saccheggiato, e che noi vogliamo fortemente, sì, far riprendere in mano proprio al settore, al comparto agricolo, che è il settore. Se vogliamo rilanciare il comparto agricolo, il ragionamento che lei fa, Gianni Cantele, è questo: insomma, la canapa può giocare un ruolo, perché è un tipo di coltivazione ad alta intensità, ha una resa piuttosto elevata, quindi anche produttivamente parlando remunerativa per chi lo fa. Ci si possono fare tante cose, dai mattoni per la bioedilizia, ai tessuti, alla carta, e contribuisce quindi al benessere dei terreni. Oltre poi a esserci l'aspetto di coltivazione della parte con principio attivo per l'uso terapeutico, che già si fa in molti ospedali italiani, in molte regioni lo hanno inserito, e piuttosto che importare il prodotto finito dall'Olanda, che costa tantissimo, giustamente qualcuno dice: perché non lo produciamo noi? Che in Italia si produceva un sacco di canapa un tempo, e questa è la frontiera. Ci arriveremo? Anche sotto questo aspetto ci sono comunque già dei piccoli esperimenti anche in Puglia, e chiaramente, sì, quelli vanno presi con maggiore accortezza e attenzione, proprio per la delicatezza della questione. Cioè, però praticamente bisogna fare dei terreni molto ben recintati per evitare qualcuno possa, oppure delle serre chiuse a chiave. Faccio una domanda stupida, ma la canapa piantata nei terreni inquinati dall'Ilva poi fa male? Beh, allora, se viene fumata, per esempio, per sbaglio, ovviamente, no, per abbiamo sbaglio, detto che non si fuma, ci solo, si fanno i mattoni. Solo per sbaglio. No, questo dobbiamo dirlo con molta chiarezza. È chiaro che una pianta che viene utilizzata proprio per il principio del ciclo di risanamento non può essere utilizzata per usi alimentari. Ah, perfetto, quindi chiaramente viene solo, eliminata. Solo gli usi, no, diciamo che può essere utilizzata lì dove, poi certo, magari anche con trattamenti che possono eventualmente impoverire degli eventuali metalli pesanti che sono stati, sì, accumulati, può essere utilizzata, ma ripeto, solo per usi non alimentari, non, perché non poi ci si fa anche l'olio con la canapa, magari si può fare un olio per oliare, ma non per usi alimentari. Grazie Gianni Cantele, dica. Io vorrei rubarvi ancora un minuto, perché credo che sia giusto, soprattutto per Taranto e la zona di Taranto, diciamo, dire che Taranto è una città bellissima, tra l'altro con un museo fantastico che è il Marta. Momento proloco, condivido in pieno, sono stato al Dog Festival a Taranto e assolutamente condivido, prego, scusa. Quindi? E poi soprattutto che dove nelle aree dove non ci sono problematiche da un punto, sì, di vista di diossina, uva da tavola, uva da vino, l'allevamento, quindi allevamenti bellissimi. Quindi nelle l'appello zone è venite in Puglia, venite a Taranto, esatto. Non tutto quello che è intorno a Taranto è contaminato, anzi, basta magari uscire qualche chilometro fuori dalla città dove non c'è questo divieto di pascolo e anche di coltivazione. Grazie Gianni Cantele per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie Presidente a voi, di Coldiretti Puglia, che ci ha parlato di questo progetto detto, coltivare la canapa per disintossicare dalla diossina in particolare. È un argomento dolorosissimo, il terreno della zona intorno a Taranto, però resta la regione bellissima, tanti spunti eccezionali, la Puglia. Poi c'è Claudio Schiattone che saltellava dietro dal vetro in regia, però confermo che Taranto è bellissima. Ricordo il premio Marcellino De Baggis, che è il Festival Internazionale del Cinema Documentario, il quale l'anno scorso ero in giuria, che si terrà anche quest'anno e si tiene tutti gli anni. È un festival bellissimo e saluto tutti gli organizzatori. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È con il pianto in fondo al cuore che devo dire che siamo quasi in chiusura e non abbiamo potuto dedicare tanto spazio agli ascoltatori. Agli ascoltatori e alle loro superstizioni. Sì. Tocca continuare domani a ragionare di questo e giusto, anche a premiare giusto. Telefonata più bella, perché oggi non ce la facciamo, anche perché è il momento, questo sì, gradito, di dare la linea di nuovo agli amici di Radio Immaginari, la radio dei bambini tra gli 11 e i 17 anni, che sta facendo insieme a noi questo viaggio nel bullismo. Sentiamo cosa ci hanno da raccontare oggi i ragazzi di Radio Immaginario. Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, hai capito? Smettila, dai, non t'ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Ciao a tutti Radio 24, noi siamo gli speaker di Radio Immaginaria, la prima e unica radio di adolescenti in Europa, condotta solo da ragazzi dagli 11 ai 17 anni, che voi conoscete già perché siamo con voi con la vostra radio già da qualche settimana. Questo è Cacciabulli e oggi siamo qui per raccontare delle nostre nuove esperienze di bullismo. Oh yeah! Oggi sono qua e con Radio Immaginaria e volevo raccontarvi la mia esperienza con il bullismo. Allora, in pratica, qualche anno fa, quando frequentavo i primi anni di liceo, attraversai un periodo abbastanza buio in famiglia. E questo mi portò, diciamo, ad avere degli atteggiamenti diversi con i miei amici e a isolarmi, ma niente di grave. Però queste persone che consideravo miei amici, invece di cercare di capire la mia situazione e di aiutarmi ad uscire da una situazione abbastanza brutta, si isolarono ancora di più da me, mi trattarono come se fossi stata esclusa dal gruppo. E un giorno, non felici di tutto questo, decisero di farmi uno scherzetto, ovvero mi alzarono la gonna davanti a tutti a scuola. Oltre ad essere umiliata, perché comunque ero più piccola e non sapevo come gestire la situazione, mi sentii tradita da persone che pensavo mi volessero bene. Allora, la situazione la superai parlandone tantissimo con i miei genitori e trovando un nuovo gruppo di amici che mi sostenessero, mi accettavano per chi ero e che mi aiutarono tantissimo a superare appunto questa situazione difficile in famiglia. Quindi il bullismo può avere diverse forme, però qualsiasi situazione che fa sentire una persona a disagio, imbarazzata o male o triste, secondo me è una forma di bullismo e può essere superata, contrastata con l'aiuto dei genitori e di nuovi amici. E questa è Radio Immaginaria! Oh yeah! Quest'anno per la mia classe è stato diverso. In prima superiore avevo un compagno preso di mira perché mingherlino, più debole rispetto agli altri, e un altro invece che era quello che prendeva di mira invece questo mio compagno ed era considerato il bulletto di turno assieme a tutto il suo gruppetto. Questa situazione è durata dalla prima fino alla seconda. Poi alla terza c'è stato il cambiamento delle classi e questo bulletto, presunto bulletto, si è ritrovato senza il suo gruppetto. E quest'anno, non avendo più nessuno con cui prendere in giro questo mio compagno, ha letteralmente smesso. Ora questi due si parlano anche tranquillamente e è come se niente fosse mai successo. Io credo che questo sia dovuto al fatto che questo presunto bulletto aveva semplicemente bisogno di attenzioni, magari aveva paura di essere bullizzato a sua volta. Sì, sì! Io invece voglio raccontarvi la mia esperienza positiva. Nella mia scuola c'è un ragazzo omosessuale dichiarato e nessuno lo giudica, non c'è bullo che lo guardi male. Infatti, lui entra nel bagno delle femmine e non c'è persona che lo giudichi, perché forse nella mia scuola ci sono persone più tolleranti, c'è una mentalità più aperta e non per forza scuola è uguale a bullismo. Radio Immaginaria! Questa era la sintesi del nostro anno scolastico, dove abbiamo vissuto esperienze sia negative che positive, ma l'importante appunto è parlarne e noi lo facciamo tramite Radio Immaginaria inviando una mail a radioimmaginaria@gmail.com. Ciao! Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Ciao Radio Immaginaria, in attesa di avervi qualche volta in diretta con noi. Qui con noi, a raccontarci il mondo dei ragazzi. È tutto, dobbiamo salutarci. Sì signori, io ricordo che oggi c'è il Pavia Pride. Io sono ospite del Pavia Pride, quindi alle 3 parte da Pavia il Pride di Pavia. Grazie ad Andrea Peana, Claudio Schiattone, Peter